got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Bentrovati da Valentina Furlanetto, una nuova puntata di Indovina chi viene a cena. Oggi facciamo un giro a Milano, una Milano particolarissima, la Milano etnica, perché è stata pubblicata proprio la guida al patrimonio interculturale della Milano etnica con il racconto delle persone che vi vivono, realizzata dalle donne straniere che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana del Centro Italiano per Tutti di IBVA, associazione non profit che opera a favore dei minori e delle famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico. Allora, perché lo facciamo? Perché ovviamente la guida di questa Milano è anche una guida culturale, ma anche gastronomica. Della cultura fa parte anche la gastronomia, quindi ci sono anche delle indicazioni sui mini market, i ristoranti e le specialità tipiche per ogni comunità straniera che vive a Milano, e sono moltissime. Io ho due ospiti e quindi due autrici di questa guida per parlarne al telefono con noi. Abbiamo Beata Skujiska. Buonasera. Grazie per essere con noi. Lei è l'autrice del capitolo sulla Polonia. E abbiamo anche Anan Abdeldaim, che insieme ad altre autrici si è occupata del capitolo sull'Egitto. Benvenuta, buonasera Anan. Buonasera. Con voi parleremo di questi due capitoli dedicati appunto a Polonia e Egitto. Ce ne sono molti altri in questa guida di Giro Giro Mondo, guida al patrimonio interculturale della Milano etnica. Ma io so che a cena Radio 24, proprio per iniziare a parlare, avete portato due piatti. Beata, qual è il suo piatto? Io ho scelto un piatto molto famoso, pierogi, probabilmente questi ravioli sono tra le specialità polacche più famose. Sono i ravioli, solo che per polacchi è un secondo piatto, non primo come Italia. Ah, ho capito, e di primo cosa mangiate? La zuppa, è vero. Tanti tipi di zuppa. In molti paesi dell'est Europa. Quindi questo piatto, perché ha deciso di portare proprio questo piatto? È il suo piatto preferito oppure è proprio tipico della terra da cui lei proviene? Penso che è più famoso il piatto polacco, è più conosciuto. A Milano si riesce a ritrovare questo gusto in un ristorante oppure nei negozi che lei frequenta? Riesce a trovare gli ingredienti per farlo in casa? E purtroppo a Milano non ci sono ristoranti polacchi. Un tempo fa c'era un bar, un altro mondo, guidato da due ragazze polacche, ma da un po' di tempo ragazze sono tornate in Polonia, purtroppo non c'è più. Sì, gli ingredienti sono molto, molto facili, dipende che ripieno vogliamo fare. Più famoso penso che sono formaggio bianco, la ricotta o quello formaggio bianco un po' più acido. Le patate, la cipolla, la farina, uovo, acqua, sale e la menta. Che vogliamo fare un ripieno diverso sono crauti e funghi, e possiamo fare carne e grano saraceno, e poi possiamo fare pure un parte dolce, le ravioli ripiene con frutta. Ah, quindi si può declinare in diverse maniere questo piatto. Sì, e con cosa si condisce? Allora, quelli salato puoi condire con burro sfuso o con sugo di pomodoro, che qua tanti italiani piacciono con sugo di pomodoro, ripieno dolce con la panna acida e zucchero velo. La cucina polacca, semplice ma sostanziosa, ha come alimenti di base minestre, zuppe e salse. E per prepararle attinge alle risorse dei suoi boschi, dei campi, dei prati, dei fiumi e dei laghi. La cucina è varia, anche se l'ingrediente basilare restano le patate, che i polacchi mangiano in grande quantità e rappresentano la cosa che non può mai mancare sulla loro tavola. Sono un po' l'equivalente del nostro pane. Le minestre sono molto gustose e portano i nomi di Barcic, una zuppa di barbabietole con ravioli di forma caratteristica, farciti di funghi o di carne. Klodnik, una minestra fredda di latte cagliato con aggiunta di foglie di barbabietola, erba cipollina e di altre verdure fresche. Ma soprattutto Zurek, una minestra nota da decine di generazioni, conosciuta anche come minestra del giorno prima. Il più famoso e antico piatto polacco sono i bigos, uno stufato di carne, cavoli e crauti, con aggiunta di prugne secche e altre spezie, preparato in diverse varianti. I pierogi, invece, sono dei raviolini quadrati, solitamente ripieni di formaggio, frutta, funghi, cavoli, ma non mancano ripieni di ogni tipo. Tra i dolci ricordiamo i makovtse, ovvero paste dolci fatte con semi di papavero, i pierniki, ovvero dolci al miele, i mazurki, fatti di pasta frolla e frutta secca, e i serniki, con ricotta. Ma il dolce per eccellenza è la kremovka, un dolce papale. Invece, per quanto riguarda la comunità egiziana, abbiamo una certa scelta, no, Anan, sul territorio milanese di ristoranti quantomeno arabi, ma anche proprio egiziani. Egiziani, sì, sì, sono tanti a Milano, abbiamo già scoperto anche di più di quello che abbiamo già pensato che sono già presenti per il nostro giro. Veramente anche tanti pizzaioli adesso sono già diventati, sono tutti egiziani, abbiamo già scoperto anche quello. Ma io per oggi ho portato un piatto per noi quando dovete andare in Egitto, questo è l'unico piatto, tutti i turisti devono prenderlo, che è famoso per noi e tutti le mangiano anche a casa. Un po' pesante prepararlo perché serve tempo più, ma ogni tanto lo facciamo perché è un piatto unico. E questo, che piatto è? Si chiama koshari, si chiama così perché il piatto contiene tante cose insieme: pasta, riso, cece, lenticchie, cipolle. Allora è un misto di tante cose insieme, allora hanno nominato questo nome strano. Per che dire. Significa? E koshari vuol dire tante cose che non hanno, che non appartengono insieme, che mettono insieme. Prima dobbiamo fare lenticchie, cece, dobbiamo cuocere da sole in due pentole separate e dopo iniziamo a preparare, cuocere anche il riso da solo, anche due tipi di paste come, non so, sci, come maccarone, qualsiasi tipo che la persona può piacere, o a casa la mamma può vedere che questi gli piacciono più alla famiglia, allora può usare anche quelli. E dopo rimangono un posto caldo quando sono già cuocere, e dopo a parte mettiamo filo d'olio con aglio, cipolle, peperoncini, perché questo piatto è un po' piccante, poco, che noi dobbiamo decidere troppo piccante o meno, questa è la nostra scelta. E facciamo un passato di pomodoro e dopo facciamo il misto di tutte le cose che abbiamo già preparate. Sì, sì, i sì. Segni della presenza egiziana a Milano in effetti sono distribuiti anche proprio nelle scritte, nelle insegne dei negozi, ci sono molte macellerie halal. Macelleria araba, sì, halal e araba, e sono tutti, in maggioranza sono già egiziani, sì sì. Halal, quindi sì. Non è difficile procurarsi gli ingredienti? No, gli ingredienti anche possono trovare, non solo anche nelle macellerie, perché se noi vediamo c'è la pasta, e penso che tutti le case italiane ci sono. Quella la troviamo. Cece, sì, riso, lenticchie, passato di pomodoro, sono tutte cose che sono già presenti comunque in tutte le case adesso, anche con l'inverno. Questo è un piatto tipico per l'inverno, riscalda un po'. Allora, poi parleremo anche della presenza proprio delle comunità straniere, egiziane e polacche in Italia, le zone dove sono radicate, le prime migrazioni in questa città, la presenza anche culturale. Ma prima di chiudere questa prima parte della trasmissione, volevo chiederle, per chi non sapesse che cos'è la carne halal, di spiegarci in cosa consiste. Per possiamo dire per uccidere gli animali, che non è con l'elettricità o con le macchine, dovrebbe essere per non farlo soffrire, che noi li tagliamo in modo che tutto il sangue del corpo dell'animale esce fuori, così tutta la carne e senza la presenza del sangue dentro. Ci fermiamo brevemente, torniamo fra pochissimo a parlare con voi di questa guida al patrimonio interculturale della Milano Etnica. Got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera giriamo per Milano in compagnia di due signori, di due autrici di una guida alla Milano Etnica, Giro Giro Mondo, e sono Beata, che proviene dalla Polonia, e Anan, che proviene dall'Egitto. Stavamo parlando delle piatti che ci avete portato a Radio 24 e che fanno parte del bagaglio culturale, delle valigie almeno simboliche con cui voi siete arrivate dai vostri paesi, ma c'è molto altro, no? Beata, la presenza della comunità polacca a Milano in cosa consiste? Ma noi siamo comunità oggi abbastanza piccola, siamo più di 1000, ma la nostra storia arriva da 1796, emigrazione, quando il generale Henryk Dąbrowski è venuto a Milano incontrarsi con Napoleone Bonaparte, e il risultato di questo incontro era le legioni polacche che combattevano per indipendenza, prima a Milano, Lombardia, e poi sono andate in Polonia. Una bella scoperta, penso che pure la Bona Sforza, figlia di Galeazzo Sforza, che è diventata regina della Polonia. Quindi lì c'è una connessione fortissima con Milano. Certo. Penso che grazie Bona, che parliamo di piatti, noi in Polonia abbiamo verdure, perché era lei che ha portato tante verdure in Polonia, e la pasta. E poi dal punto di vista del culto dei polacchi a Milano esistono anche delle chiese della vostra, certo, della missione cattoliche polacche. Sì, chiese anche importanti. Sì, abbiamo la chiesa di Santa Maria alla Porta, nome prendi dalla via, vicino, diciamo, da Cadorna non è lontano, e da via Meravigli pure lontano. Una bella chiesa vecchia, antica, dove noi troviamo i nostri due quadri di Madonna di Częstochowa, Madonna Nera e Gesù Miracolioso, che per noi sono due quadri molto importanti per polacchi cattolici, diciamo. Poi esistono delle riviste anche per le, certo, persone della comunità polacca in, sì, Italia? C'è rivista cartacea e pure adesso il sito su internet, che si chiama Nasz Świat, che vuol dire il nostro mondo, che autrice sono donne, ma comunque ognuno di noi che fa parte della comunità polacca, ma non solo, che simpatizza con comunità polacca, può scrivere un articolo e sarà sempre pubblicato, perché diciamo che tutti quanti possiamo essere autrice di un articolo o una informazione o un evento che è successo, che succederà, ecco. In questa guida una delle particolarità è che vengono elencati i milanesi illustri nel paese, sì, in Polonia in questo caso, e, sì, i polacchi illustri a Milano. Certo. Ci fa due esempi di questo tipo curiosi, interessanti? Allora, che io parlavo prima, la Bona Sforza, che è 1490 qualcosa, nata. Allora, era già la figlia di Gian Galeazzo Sforza, duca, sì, di Milano. Che poi diventa una regina della Polonia. E poi penso che molto importante per milanesi è Cesare Correnti, un scrittore, patriota e politico. Lui fin da giovane ebbe interesse per la Polonia e per la storia. Cominciò a scrivere il libro titolato Storia della Polonia e fa amicizia con il nostro grande scrittore patriota Kraszewski. Poi un altro, penso, molto importante, Arrigo Boito, un altro milanese. E là, stranamente, la sua madre, ho scoperto che la sua madre era polacca, la contessa Józefa Rodolińska. I polacchi illustri qua a Milano, ecco, possiamo dire primo è generale Dąbrowski, generale Mickiewicz, che pure è poi il nostro compositore Ignazio Paderewski. Anan, per quanto riguarda invece l'Egitto, la migrazione egiziana a Milano, a quando si può far risalire? Più recente, no? Al 970 più o meno? 70, sì, proprio per i problemi economici, possiamo dire, è già iniziata. Allora gli egiziani sono diventati emigranti dal 1970 e sono venuti qua in Italia per cercare lavoro. e dopo piano piano hanno stabilito la loro attività fino ad arrivato il momento che hanno iniziato a chiamare le famiglie, le mogli, i figli, e da questo momento è già aumentato anche la loro presenza a Milano. E è una presenza adesso abbastanza imponente, che si declina anche con una presenza della comunità religiosa islamica, no? Ci sono dei luoghi di culto. Sì, sì, per i luoghi di culto veramente sono tanti, ma quello più importante è il centro islamico a Segrati, che è proprio un centro che offre tante cose per i musulmani, gli immigranti musulmani, perché non so, cioè noi abbiamo anche Ramadan, la festa del digiuno, e di là le moschee o il centro può offrire anche il mangiare per le persone in digiuno alle sera, per tavoli grandi per 200-300 persone. Avete molte associazioni? Tra cui l'Associazione Italo-Egiziana, i Giovani Musulmani d'Italia, l'Associazione Donne Musulmane d'Italia, e ci sono anche delle riviste, dei giornali. Sì, sì, sì, ma anche voglio dire, anche per il posto di accolto c'è anche la chiesa per gli egiziani copti, che loro anche loro ce l'hanno, la chiesa è in via Senato. Comunque per loro. Sì, perché anche in Egitto c'è, cioè, ovviamente la religione musulmana, ma è presente anche la religione copta. Copta, sì, sì. E per le riviste veramente non sono tanti, ma comunque possiamo dire c'è giornali che vengono sempre dall'Egitto e noi possiamo trovare anche nell'edicola, ma c'è anche dei centri che fanno queste riviste come il Messaggero dell'Islam, che è quello dal centro islamico. Che lui fa questa rivista, ma proprio partiene o spiegare delle cose tutte in italiano dell'Islam e tutte le cose per quelli che vuole vedere e vuole sapere dell'Islam. Anche lei ha curato una parte che si riferisce ai milanesi illustri in Egitto e agli egiziani illustri a Milano. Sì. Quali sono le storie più curiose? Per dire quello che mi ha colpito anche, che possiamo dire c'è anche quello il signor Giuseppe Levi, che lui ha aiutato perché lui era un banchiere. E lui è nato a Venezia e dopo è venuto in Alessandria d'Egitto nel 1890 e lui ha iniziato a aiutare per fare o iniziare a fare anche delle banche. Che cosa vuol dire? Come posso iniziare? Allora possiamo dire che lui ha aiutato nel mettere la base per le banche per l'Egitto. E questa cosa io non sapevo prima. Questa è una cosa ovviamente significativa per lo sviluppo, sì, dell'Egitto. Sì, sì, certo, certo, una cosa, delle cose molto importanti. E per quegli egiziani illustri a Milano, io ho conosciuto in persona il professore Wael Farouk, che è veramente un uomo che ha dato molto per la lingua araba all'Università Cattolica, che lui sempre fa questa settimana per la lingua e sempre invita delle persone, degli scrittori, degli attori di tutto il mondo arabo, non solo dell'Egitto, per parlare di questa lingua e com'è, per darla anche un po' di importanza tramite di altre lingue. La cucina egiziana ha molte caratteristiche in comune con quella mediterranea, nonostante sia avvertibile nettamente una pesante influenza della gastronomia medio orientale. Nella cultura egiziana riveste un ruolo molto importante l'abitudine dell'aperitivo, che viene fatto solitamente con degli stuzzichini tipici che hanno proprio il compito di stimolare l'appetito. Da questa tradizione nascono le mezze, che vengono servite con dell'arak, un liquore d'anice rinfrescante. Una delle mezze più tradizionali è probabilmente quella full madamas, realizzata con delle piccole fave ricoperte da olio d'oliva, limone e cumino. Il cumino è infatti, insieme al coriandolo, la spezia più usata nella cucina locale. Un ruolo importante viene rivestito dal pane, generalmente tondo, che viene spesso tagliato in due parti per essere riempito con delle insalate o dei deliziosi sughetti. La carne, molto costosa, viene quasi sempre usata per occasioni particolari. Viene generalmente accompagnata da riso e verdure e degustata con grande parsimonia. Tra le varie tipologie di carne prevale l'uso della carne di montone e di agnello. Le verdure hanno un ruolo primario nella dieta egiziana, con un uso piuttosto accentuato delle melanzane, sempre disponibili nei mercati locali. Ma anche le fave sono quasi sempre presenti sulle tavole, così come le insalate di cetrioli, pomodori e cipolle. Il pesce, il samak, è sempre fresco, specie quello delle città costiere. Quello del Nilo, invece, non è commestibile, quindi in queste zone ci si approvvigiona direttamente dal mare, cucinandolo in maniera piuttosto semplice attraverso zuppe oppure direttamente arrostito. Grazie quindi a Beata Sujinska per essere stata con noi questa sera, l'autrice del capitolo sulla Polonia di Giro Giro Mondo. Grazie per essere stata con noi, Beata. Grazie a lei, buona serata. Grazie anche a Anan Abdeldaim, che insieme ad altre donne egiziane si è occupata del capitolo sull'Egitto. Grazie, buona serata. Grazie a lei, buona serata. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, a tutti voi per l'ascolto. Vi do appuntamento a sabato prossimo per un'altra storia che vi porterà in Italia, ma con le radici in altri posti. Grazie a tutti, buona serata da Valentina Furlanetto, ciao. You've got to give a little. That's the glory of